Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Il caos e l'ombra delle mongolfiere. Se ti è capitato di darmi indicazioni stradali, di farmi da navigatore mentre guidavo io, o se abbiamo mai praticato yoga insieme, potresti ricordarti che confondo la destra e la sinistra. Le confondo a livello pro, non si tratta di una generica distrazione. È una questione un filo più sistemica e profonda, al punto che qualche anno fa, a fine lezione, in una mia classe storica, alla quale cioè partecipavano molte persone che praticavano insieme a me da anni, qualcuno notò che non avevo mai confuso destra e sinistra. Tutti applaudirono. Io ero molto divertita per l'applauso e anche molto grata, perché lo so che si tratta di una sciocchezza che viene naturale alla maggior parte delle persone e forse alla totalità delle mie colleghe e dei miei colleghi, ma per me è difficile e mi sono sentita accolta nella mia piccola fatica, che per la cronaca ha radice nella mia primissima infanzia ed è, mi dicono, una forma di neurodivergenza. Eppure, quando mi muovo non a partire dall'apparato muscolo-scheletrico, ma dai visceri, dal ripieno, non confondo mai destra e sinistra, perché la direzione autentica è indubitabile e viscerale, dal caos a un ordine interiore. Ti senti disorientata, disorientato e in cambiamento? Senti di aver perso la tua bussola? Oltretutto, alla tua età? Il fattore età torna spesso nelle conversazioni con le mie persone, che poi sono quelle che praticano insieme a me, che leggono e ascoltano queste newsletter e mi rispondono. Quindi scrivo qui quello che mi capita di ripetere spesso a voce. Il fatto è questo: non abbiamo nessun obbligo di capire tutto della nostra vita e di noi stesse e noi stessi a nessuna età, nemmeno dopo i 90 anni. Mai! Se avessi capito tutto, vorrebbe dire che non stai più vivendo. Tieni conto che tu cambi di continuo, la tua vita cambia di continuo, il mondo cambia di continuo. E tu, la vita e il mondo, interagite costantemente, creando dinamiche diverse ogni giorno. Sarebbe impossibile che non ci fosse a volte un senso di confusione molto più complesso del mescolare destra e sinistra. E se smettessimo una buona volta di cercare di controllare tutto e invece iniziassimo ad abbracciare la vita e la sua natura di costante cambiamento? E se iniziassimo ad orientarci nel mondo a partire dall'interno, dalla direzione autentica, viscerale, profonda? Se vuoi scoprire la tua insieme a me, la bussola interiore è il percorso yoga online che fa per te. Ci saranno 4 dirette a partire da lunedì 9 ottobre. Le dirette non saranno registrate e sono destinate soltanto alle persone che leggono e ascoltano questa newsletter. Ho previsto un contributo di partecipazione davvero vantaggioso perché mi interessa che anche chi magari non si è mai iscritta o iscritto ai miei incontri online abbia la possibilità di farlo a un prezzo piccolissimo, 25 euro. Ci saranno, dal 6 al 26 novembre, 6 registrazioni di 40 minuti, aperte anche a chi non è iscritto o iscritta alla newsletter. Gli argomenti delle dirette e delle registrazioni sono gli stessi, ma saranno sviluppati in modo molto diverso perché il modo di fruizione è differente. Il contributo per ricevere il link alle 6 registrazioni è di 45 euro. Chi vorrà venire in diretta e avere anche le registrazioni avrà quindi 2 mesi di incontri con uno sconto. Contattami per avere informazioni. Per tutte e tutti coloro che stanno aspettando i percorsi yoga e mitologia, arrivano online a novembre e a ottobre farò una lezione gratuita solo per le persone iscritte alla newsletter. Inizia a spargere la voce e gira questa email o il link alla mailing list a chi sai si godrebbe tantissimo l'incontro. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Alec Sou, dal suo Murdo, il libro dei sogni impossibili. Ho sempre sognato di essere l'ombra di una mongolfiera e di staccarmi da lei al momento del decollo, di galleggiare silenzioso sopra la terra, di scivolare sull'erba alta, di sfiorare il dorso delle colline, di toccare la cresta delle onde senza bagnarmi. Ho sempre sognato di accarezzare la pelle del mondo, di farne un giro, lasciandomi attraversare dalle ombre e dalla luce. Un grande abbraccio, Laura.